la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino è alle 16:07 primi e 31 secondi. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretto in podcast. A Milano c'è sempre il sole, quest'anno proprio non si può quasi mai sbagliare. E detto tutto questo, oltre al grazie per l'ascolto, di che cosa parliamo oggi e quindi eventualmente il tema su cui, se volete, potete, mi fate felice chiamando all'800240024 per l'opinione, lo sapete, 3492 3866. Allora, nella puntata di oggi approfondiamo due questioni su quali ritualmente torno come osservatore, cioè che cosa sta succedendo nel traffico, nel trasporto pubblico, perdonatemi, locale, quello regionale, quello su ferro e su autolinee, in particolare quello su ferro. Ecco, questa settimana c'è stata una iniziativa senza precedenti, perché ben tre autorità insieme, cioè l'autorità antitrust, l'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone, che è quella che regola la storia degli appalti e li controlla, e l'autorità di regolazione dei trasporti, hanno preso una posizione energicissima, comune, è la prima volta che avviene nella storia del nostro paese, dicendo: guardate, questo settore non va proprio, è completamente fuori da come dovrebbe essere gestito, cioè con criteri di concorrenza, con delle gare per i contratti di concessione a livello regionale e le migliori offerte vincono. Non è così, assolutamente no. È l'effetto, in altre parole, di ciò di cui negli ultimi 2 anni ci siamo spesso occupati, o nella trasmissione del sabato, i Conti della Belva, o in quella del pomeriggio, cioè Ferrovie dello Stato torna a essere il vero monopolista, è inutile, e alla politica questa cosa qua piace, tutto sommato. Solo che poi alla fine i servizi restano come sono, e io su questo vi chiedo di telefonare. Se siete pendolari dei trasporti ferroviari nelle diverse regioni italiane, chiamateci per dirci: avete visto qualche miglioramento, più puntuale, più pulito, eccetera eccetera, ecco, oppure continua a essere, come in realtà è rispetto all'alta velocità, un settore che in questi anni ha perso molti punti come qualità dell'offerta di servizio, tranne rare eccezioni. E questa è una parte della trasmissione, quindi se ci volete dare la vostra testimonianza sul trasporto pubblico locale e regionale, 800240024. E poi in realtà c'è anche una parte aggiuntiva, perché andiamo a vedere cosa succede nel frattempo nella prolungata gestione commissariale di Alitalia. Sapete, in mano ai commissari, prima c'è stato un fondo di dotazione, un fondo ponte straordinario di 6 mesi, come vi avevo detto. Naturalmente non ci ho mai creduto che sarebbe durato 6 mesi, infatti non dura 6 mesi, perché c'è stato un rifinanziamento che arriva puntualmente. La data della decisione dei commissari io francamente non credo che sia stringente. I commissari hanno detto che per il momento le offerte di Lufthansa e EasyJet non vanno bene. Perché non vanno bene? Non vanno bene perché non prendono, come scontato, e abbiamo detto sin dal primo giorno, l'Alitalia nel suo insieme, cioè la parte aviation e la parte handling. Adesso, sorpresa sorpresa, e di questo parleremo, arriva un'offerta fuori gara, una disponibilità a fare un'offerta fuori gara del fondo internazionale americano Cerberus, che è specializzato, diciamo così, in interventi e gestioni straordinarie. Fece anche un intervento su Air Canada alcuni anni fa, e non è un attore industriale ovviamente del mercato del trasporto aereo. Però proprio con uno scoppettino del Sole 24 Ore di questa mattina, le fonti del fondo Cerberus dicono: beh, ma noi però siamo interessati a rilevarla intera, la compagnia. Ed è un metodo, secondo me, chiaro come il sole, avendo osservato in questi mesi come la politica ci tenga a dire che vuole decidere lei il prezzo della cessione, vuole cederla integralmente. I sindacati vogliono la stessa cosa. Io la traduco come la voglia di tenersela pubblica, ecco, detta fuori dai denti, e tornare a perderci un fracco di soldi sopra, come è già avvenuto con l'Italia pubblica, poi è venuta anche con quella privata e con Etihad. Ma io ci leggo quella volontà. Ma Cerberus ha capito che basta pronunciare la parola la magica, la prendo tutta, per cui i commissari dicono: ah, beh, vediamo. E allora sentiremo anche di un ospite per capire quanto c'è di serio in questa offerta e quanto non sia invece uno scusa per far passare altro tempo e tenerla pubblica. Del resto il bilancio non è questo solo per l'Italia, anche di Ilva, il governo ha azzerato le condizioni che aveva scritto nelle sue cose di gara e ha fatto ripartire da capo i privati che se l'erano aggiudicata. Altro che privatizzazioni, qui si nazionalizza, MPS è tornata di Stato, l'Ilva è di Stato, l'Alitalia è di Stato, eccetera eccetera. Ma partiamo con il settore del trasporto pubblico locale, perché vi dicevo, il documento di questa settimana dell'antitrust, dell'anticorruzione della regolazione dei trasporti è implacabile. Dopo 20 anni di leggi sulla concorrenza nel trasporto pubblico locale, il decreto Burlando, che a me sembra in realtà dell'altro ieri, è in realtà del 1998, cioè di 19 anni fa. E qual è il bilancio? Il bilancio è che di 43 concessioni oggi esistenti da parte delle regioni, quelle andate a gara quali sono? Quante sono? Due, tutto il resto è ad affidamento diretto. Stiamo parlando di un settore che pesa, scusate il colpo di tosse ma sono raffreddato, per un fatturato che sfiora i 4 miliardi di euro nel nostro paese, dei quali la stragrande maggioranza, cioè 2,8, derivano da trasferimenti pubblici, quindi è un settore che si regge grazie a questo, non, ohimè, con i proventi dell'attività caratteristica industriale, cioè con i biglietti, e che ha visto rispetto all'alta velocità, come dicevo prima, un decalage molto chiaro della qualità dell'offerta. Eppure, ciò malgrado, la vecchia prassi degli affidamenti diretti si è, per così dire, rispetto ai tentativi di qualche regione di andare a gara vera, riaffermata, perché Ferrovie dello Stato nel frattempo, alle Ferrovie dello Stato di Ruffini, hanno lanciato una grande offensiva in tutta Italia per dire: vogliamo diventare noi, siamo già noi ma lo vogliamo diventare di più, sia nel trasporto ferroviario regionale e locale, sia estendendoci nelle autolinee che sono l'altra componente del trasporto pubblico locale, perché noi abbiamo bisogno di fare massa critica a livello europeo, quindi l'Italia deve essere nostra. Anzi, la scelta del governo Renzi fu quella di dire: incardiniamo il più degli investimenti pubblici tutti attraverso Ferrovie dello Stato, che diventano una specie di IRI di Stato, cioè il vero canale degli investimenti pubblici nazionali. Io ero contrario e resto contrario, per ragioni che abbiamo spiegato più volte, all'una e all'altra cosa, ma la traduzione nel trasporto pubblico locale ferroviario è la mancanza della possibilità di verificare se altri offrono qualità più elevata e magari anche con margini economici tali da far crescere il totale delle risorse incassate da attività caratteristiche, senza contare solo sui trasferimenti pubblici. Ecco. E di fronte a questo le tre autorità hanno detto: bisogna che avvenga una svolta verso la trasparenza. Naturalmente è un platus vocis, una richiesta da grida manzoniana, perché la politica va in tutt'altra direzione. Hanno tirato le orecchie alle regioni, perché ci vuole pubblicità nei dati del mercato, nei dati della gestione, delle perdite, dell'utilizzo, dell'efficienza nell'organizzazione del lavoro e negli assenti da lavoro, nei costi esternalizzati rispetto a quelli della gestione propria di chi gestisce il servizio, dalla polizia alla manutenzione eccetera eccetera, tutte informazioni che devono essere rese disponibili e accessibili e che nella stragrande maggioranza dei casi non lo sono affatto, e quindi rendono il settore con gli affidamenti diretti prigioniero di una opacità tale che diventa molto difficile darne dei giudizi sulla economicità della gestione industriale. Dopodiché hanno richiamato le regioni al fatto che se vogliono restare in house e se vogliono continuare ad aggirare le leggi, le motivazioni devono essere precise, devono essere motivazioni economiche, industriali, in termini di efficacia e di efficienza, mentre non c'è mai niente di tutto questo. Quindi noi abbiamo costruito un mondo della prassi che non ha niente a che vedere con le leggi. Le leggi vengono sistematicamente aggirate. E mi permetto di assumere la responsabilità di quello che dico, anche se naturalmente ogni assessore regionale che avessi chiamato oggi mi avrebbe detto: ma non è vero, perché in base a questo, in base a quello, eccetera eccetera. Le tre autorità dicono: abbiamo costruito un mostro. Ecco, allora, due ospiti per parlarne, perché proprio su questo tema ha scritto un articolo sull'inchiesta il 1 novembre, Alberto Cazzani. Alberto Cazzani è il presidente dell'articolazione regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dell'Autotrasporto Viaggiatori Privati, quelli, le aziende private che sono associate a Confindustria. È stato anche presidente di Confindustria di Pavia. Grazie di essere con noi, dottor Cazzani. Buongiorno Giannino, buongiorno agli ascoltatori. E poi uno dei punti di riferimento miei fissi, cioè il professor Marco Ponti, ex docente di economia applicata al Politecnico, che scrive sulla voce.info, Il Fatto Quotidiano, autore di un libro di cui abbiamo parlato proprio qui in trasmissione, Sola Andata, Trasporti, Grandi Opere, Spese Pubbliche Senza Ritorno, dell'EGEA Editore, cioè l'editrice della Bocconi. Buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a lei e a tutti quanti. Cazzani, riepiloga ai nostri ascoltatori i casi che ha enumerato nel suo articolo. Innanzitutto buongiorno anche al professor Ponti, sono suo estimatore e lei gli ha appena rubato la definizione dell'IRI dei trasporti certo, del professor Ponti. E del professor Ponti, verissimo, gliel'avrei riconosciuto quando gli avrei dato la parola. Lei è peggio di me, Giannino, mi piace per quello, è molto diretto. In realtà le tre autorità, che convengo al 1000 per 1000 nella sua analisi, le tre autorità riconoscono semplicemente un favor della legge nei confronti delle procedure ad evidenza pubblica, ma dicono che effettivamente si possono fare anche le procedure diverse, cioè la gestione diretta, pur con tutte le cose che diceva lei, con tutti i principi di cui lei parlava ben no, ma il problema è che dovrebbero anche motivare se facessero la gestione diretta, non solo deciderlo. Devono motivare e motivare motivando con quei principi, con l'economicità e con tutte quelle belle cose di cui lei ha parlato. Io però, se mi permette, volevo fare una piccola premessa, che è questa. In questo paese oggi il vero tema è se qualcuno crede ancora nelle liberalizzazioni. No, liberalizzazioni no. Che non sono privatizzazioni, no, certo. alla russa, sono liberalizzazioni che sono una cosa molto diversa. È l'apertura alla concorrenza, certo. Poi può essere pubblico, può essere il privato. Noi viviamo in un mondo, certo, oggi, se mi permettete un minuto di digressione, dove il penultimo trasporto, sciopero sui trasporti, voi non sapete mai perché si fa sciopero dei trasporti, sapete che c'è sciopero. Noi addetti ai lavori sappiamo anche perché. Il penultimo a Milano è stato contro la gara bandita da ATM, gara che aveva una base d'asta di 5 miliardi, quindi una gara incontendibile totalmente, eppure hanno fatto sciopero contro perché era già troppo. E l'ultimo sciopero, quello fatto dai CUB, sempre nei trasporti, sempre di venerdì ovviamente, era contro il liberismo. Contro il liberismo. Contro il liberismo. C'è un articolo bellissimo di Dicco di qualche giorno fa sul Corriere della Sera, primo punto dell'agenda dello sciopero contro il liberismo, al secondo punto c'erano le liberalizzazioni tutto ciò di cui non c'è traccia alcuna. Vabbè. Quindi, come dire, c'è un problema, diciamo, percettivo nella gente di cosa invece sono le liberalizzazioni. Sono una cosa che serve a allocare meglio le risorse, quindi la famosa siringa non può costare 30 volte di più a Canicattì rispetto a Trento, e sono una cosa che, secondo le fonti più autorevoli, danno degli effetti benefici mostruosi a un paese come l'Italia e ai problemi che ha l'Italia macroeconomici. Competitività dell'economia, ripresa dell'occupazione, riequilibrio dei conti pubblici. Voglio dire, è assolutamente pazzesco che in Italia non ci si renda conto che è una strada obbligata quella di liberalizzare i servizi pubblici a rilevanza economica in maniera spinta e seria. Io nella mia assemblea del 4 ottobre scorso ho parlato di liberalizzazioni immaginarie, perché come sempre nel nostro paese razzoliamo male. No, ma Cazzani, guardi che hanno smesso anche di razzolare, nel senso che il PD, né la destra né la sinistra credono e citano più le liberalizzazioni. La destra ha appena presentato sulle concessioni demaniali una roba che dice in campagna elettorale prendiamo queste decisioni, diamole a chi ce l'ha già. Ecco, quindi non ci crede né più nessuno nella politica italiana. Ha ragione, quindi in questo panorama bisognerebbe che tutti noi invece con pazienza, con molta pazienza, spendessimo un po' di tempo a spiegare che invece le liberalizzazioni sono cosa buona, che non vuol dire rubare l'acqua ai poveri, vuol dire allocare meglio le risorse che oggi sono scarse, pubbliche, quindi di tutti. Significa dare servizi migliori ai cittadini, significano tutte cose positive. Per fortuna quindi, qualche tarra annulla qualche gara. Sì, chiarito questo, però secondo la mia personale opinione che cerco di dare in questo articolo che lei ha citato, in questo blog che lei ha citato dell'inchiesta, una politica dell'azienda di Stato con la sua azienda in primis, ma poi anche con le sue partecipate, con le società satelliti più o meno private, con uno stuolo di avvocati, io ho definito questo modo di procedere la mia assemblea corsaro, vorrei dire aggressivo, di aggressione del mercato in tutti i modi, partendo da una posizione evidentemente di forza, secondo noi non va bene. Perché se vuoi provare a aprire anche di poco un mercato, devi farlo con delle regole certe, delle regole che favoriscano la più ampia partecipazione alle gare di tutti i competitor sul territorio, perché sennò creiamo quello che dice il professor Ponti, un campione nazionale sì, ma che per competere all'estero non ha le carte in regola, è un campione nazionale che non è aggredibile da nessuno e quindi non è che si abitua a competere e ad essere più efficiente e più bravo. Tant'è vero che poi nei casi che cito io le gare le fa e le perde pure. No, le perde pure, ma il TAR le annulla. Le deve vincere con l'aiuto degli avvocati aggressivi. Esatto, cioè quando le gare, quelle poche che ci sono, le perde Ferrovie dello Stato, arriva al TAR e annulla l'esito della gara. Questo è quello che sta succedendo. Corretto. Ecco, io credo che questo non sia accettabile, credo che... Aspetti, che i nostri ascoltatori non lo sanno, in Toscana il trasporto pubblico su strada, in quel caso l'intera regione, era stato giudicato da autorine toscane ha dietro un gruppo francese, in quel caso concorre nella gara anche Busitalia e Ferrovie dello Stato, e di fronte al fatto che non ha vinto Ferrovie dello Stato, il Tribunale Amministrativo regionale dice neanche per idea, e quindi no, eccezioni davanti alla Corte Europea, perché dice no, perché il gruppo francese nel suo paese gestisce le cose in house, ma qui sono ad affidamento diretto in 41 casi su 43, ma cioè vogliamo scherzare? Eppure questo è quello che avviene. Idem nella gara che riguarda invece il Friuli, in quel caso stiamo parlando, scusate, sempre di bus regionali, vince una società locale che però fa parte del gruppo Arriva, e in questo caso Bus Italia anche fa ricorso e il TAR annulla la gara. Ecco, questa è la realtà di fronte alla quale siamo, naturalmente pieno rispetto dei giudici, non se ne figuriamoci, però l'effetto è quello di blindare ulteriormente gare che o hanno un esito, per così dire, unilaterale, oppure guarda finiscono in queste condizioni. E a questo punto, che fa l'imprenditore privato? Che è una società sì privata, ma con lo stesso amministratore delegato di Bus Italia, quindi sempre FS, perde la gara anche lì e il TAR ribalta un'altra volta la decisione. E io ci dico nel mio articolo che quindi tre indizi forse fanno anche una prova. Ah no, ma la fanno, però il problema è che il quadro normativo che consente le eccezioni non motivate, perché questo è il punto, in realtà sta diventando l'autostrada su cui Ferrovie dello Stato realizzerà questo suo monopolio ferreo. Professor Ponti, ma non c'è proprio niente che dal punto di vista normativo consenta di appigliarsi e di tornare a quello che 20 anni fa sembrava una scelta che aveva fatto la sinistra e così via? È tutto finito, professor Ponti? Ma l'Italia ha una tradizione illiberale fortissima, mi sembra difficile da superare, ma io ho pochissimi minuti e in questo vorrei però dare un segnale molto forte sugli aspetti della socialità, perché la vulgata è che purtroppo se si fanno le gare e si arrivano i privati ne perde la socialità. E bisogna invece spiegare molto bene che è vero il contrario, perché le gare si fanno non liberalizzando, ma tra chi chiede meno sussidi per fare gli stessi servizi con le stesse tariffe. Cioè non c'è il minimo vulnus alla socialità del servizio, né per autobus né per treni, come dimostrano le gare fatte bene in Europa, in Germania in particolare. Quindi il fare una gara significa solo vedere chi è più efficiente, e coi soldi pubblici risparmiati in questo modo si possono aumentare i servizi sociali. Quindi l'equivoco costruito ad arte che l'arrivo dei privati o le gare diminuirebbero la socialità è una bugia che non sta veramente né in cielo né in terra, perché il bando di gara specifica le tariffe, la qualità e il tipo dei servizi, chiede solo qual è l'impresa che mi chiede meno soldi per X anni, non in eterno, per fare queste cose qui. Quella più efficiente ridurrà il costo per le casse pubbliche, le quali potranno fare migliori servizi o maggiori servizi. Questa è la cosa meno tollerabile del quadro che è costruito ad arte per difendere invece meccanismi sostanzialmente elettoralistici, cioè per difendere l'offerta del trasporto, le società pubbliche che forniscono il trasporto, non gli utenti. Ecco, io trovo questa spiegazione particolarmente limpida e lineare. L'unica vera questione è che ci sono due obiezioni che appartengono al mondo della prassi e della realtà rispetto a questa impostazione limpida e lineare. Se non ci fossero questi argomenti nella prassi e nella realtà a contrastare, è ovvio che il ragionamento appena esposto dal professor Ponti avrebbe uno sbocco unico, perché è ovvio che è un miglior utilizzo delle risorse della finanza pubblica quello di avere uno standard di servizio di qualità elevata che viene fissata uguale per tutti, che va garantita, sarà il presupposto su cui, se non è garantita in termini di chilometri serviti per passeggeri, standard di qualità di servizio eccetera eccetera, produce ovviamente ampio margine per chi ha lanciato la gara per intervenire sul gestore che si è aggiudicato il servizio, e per il resto utilizzare al meglio le risorse risparmiate per fare altra spesa pubblica. Peccato che nella realtà, professor Ponte, ci siano due grandi ostacoli che si rivelano insuperabili, nel senso che noi siamo tornati indietro in questi anni. Il primo ostacolo è il fatto che la politica preferisce scegliere chi gestisce, che è vicino a sé e con cui può scambiare interessi impropri, da numero di assunti, dirigenti eccetera eccetera. Il secondo è che naturalmente il sindacato preferisce mortalmente, è una ragione insostituibile della sua esistenza, difendere che il fatto che il servizio non vada ad altri, con altri dipendenti. Queste due, secondo me, posso sbagliare, lei che dice, sono le maggiori forze, le molle che ci hanno portato indietro su questa strada. Lei che pensa? Sono protettissimi. Oh. Quell'altro non può arrivare con i suoi dipendenti, vince la gara ma deve tenere pressoché tutti i dipendenti e pressoché alle stesse condizioni, quindi non c'è nemmeno quello che dice lei. No, ma io lo dico apposta, perché i sindacati ogni qualvolta non hanno quasi nulla da temere, è la stessa cosa che io ripeto. Mi faccia finire perché devo scappare. Il management ha da temere, e infatti ci sono gente maligna che pensa che il management sia spesso l'attore occulto dietro questi scioperi, perché il management delle aziende pubbliche certo che ha da temere. Se arriva un altro che vince la gara, quelli perdono il posto, ma solo quelli. Esattamente quello che dico, quando anche per la gara dell'ATAC, ve lo ripeto da due anni, l'avete sentito dal professor Ponti, il problema non riguarda i dipendenti, in quel caso non proprio tutti, ma quasi. Il problema riguarda il manico, i criteri organizzativi, industriali, gestionali. Questo è il punto fondamentale, e chissà che se qualcuno al sindacato ci dà retta, o almeno al professor Ponti, io non ho titoli, ma lui insomma ne ha. E come? Allora, intanto, grazie Alberto Gazzani, al professor Marco Ponti. Adesso andiamo a vedere che cosa succede in borsa, un po' di pubblicità e poi andiamo Cerberus all'Italia. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Il la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta dopo la prima parte in cui abbiamo illustrato le ragioni per cui ANAC Antitrust e Autorità dei Trasporti questa settimana, in maniera senza precedenti, hanno detto che il trasporto pubblico locale e regionale è gestito con criteri che impediscono in realtà una concorrenza e la trasparenza, ci siano le gare o gli affidamenti diretti, bisogna motivare e dare i dati, invece niente, e quindi siamo tornati indietro al servizio del grande disegno di Ferrovie dello Stato di prendersi il più possibile. Allora, sentiamo un po' qualcuno di voi che ci chiama per dirci cosa pensa intanto della propria esperienza diretta. Oliviero, che ci chiama da Firenze. Oliviero, prego. Allora, buonasera, dottor Giannino. Intanto complimenti per la trasmissione. L'ascolto quasi tutti i pomeriggi. Grazie. Se mi dà qualche minuto, vi racconto un episodio che ho vissuto qui a Firenze con l'ATAF. Deve essere rapido però, qualche rapidissimo, minuto. Rapidissimo. Siamo al 6 giugno del 2017, ore 7.50, prendo l'11 dal Galluzzo per Firenze, arrivati a Via Romana, il bus si blocca perché la strada stanno facendo i lavori, l'autista non è stato informato, ci fanno scendere senza darci alternative, io faccio reclamo, vado alla biglietteria di Firenze, mi danno un modulo di segnalazione con numero telefonico inesistente, contatto Regione Toscana, faccio reclamo tramite loro e in data 11/7/2017 mi arriva una lettera dell'ADAF dove dicono che prenderanno provvedimenti verso l'autista, a firma del responsabile delle relazioni esterne Alessandro Amidei. Telefono all'ADAF e chiedo di parlare con Alessandra Amidei. Alla signorina del cittadino mi mette in attesa, mi fanno aspettare un sacco di tempo e poi cade la comunicazione. Richiamo e alla fine parlo con l'Amidei e faccio presente il problema. Dico, guardi, io ho pagato il biglietto, dico, che tutela c'ho? Perché mi avete lasciato in mezzo a una strada, ho perso il treno, ho perso la giornata di lavoro. C'è un rimborso per questo? No, non c'è rimborso. Bene, io da allora non faccio più il biglietto ADAF. Ah, si autodichiara però a fronte di un'esperienza di questo tipo. Io non posso dirle ovviamente che è giusto non fare i biglietti. Ho rilanciato tra l'altro pochi giorni fa un intervento che è stato fatto in questo caso a Genova, sulla metro di Genova, l'hanno fatto insieme ai poliziotti, gli operatori dell'azienda che gestisce lo scassatissimo trasporto pubblico locale a Genova, che incredibilmente la giunta di centrodestra naturalmente ha confermato, come ha fatto la sinistra, anzi la sinistra voleva fare una gara per gestirlo e la destra col nuovo sindaco invece l'ha confermato, ed è uscito fuori che anche a Genova oltre il 30% dei passeggeri era senza biglietto, e infatti l'ho rilanciato dicendo non diciamo che capita solo a Roma e a Napoli, perché non è vero. Però nel caso di quello che dice Oliviero, beh, come si vede, poi chi gestisce il trasporto pubblico locale ha un atteggiamento che non è certo quello della qualità e della trasparenza del servizio. Salvatore da Torino, che ci dice Salvatore da Torino invece? Buongiorno, senta nulla, io sono un ferrocampiere che lavoro nella GTT di Torino. Sì. Come ho sentito, come quel signore, azienda che anch'essa, dobbiamo dire a chi non è di Torino, i suoi gravi problemi perché ci mancano negli ultimi 3 anni, la regione Piemonte non ha finanziato l'azienda 100 milioni di euro, all'azienda GTT mancano 100 milioni di euro che la regione non ha dato. Sì. Tutte le aziende che abbiamo oggi in Italia ad opera di trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro, negli ultimi 3 anni hanno avuto un taglio di fondi molto significativo. Però comporta... Salvatore, c'è chi come la TM di Milano resta inutile e con un valore della produzione, una produttività per addetto che è ai vertici nazionali. Io ogni volta che esce il rapporto annuale di Mediobanca sulle partecipate locali andiamo a vedere settore per settore chi va meglio, chi va così e chi va peggio. Dove chi va peggio sono due in Italia, i due casi peggiori sono l'ATAC da anni e anni e la NM di Napoli. Quindi significa che a fronte comunque di un contenimento dei trasferimenti c'è chi ha una gestione industriale di un certo tipo più efficiente e c'è chi invece ce l'ha meno efficiente, Salvatore, perché questo dicono i dati. Però mi scusi perché l'ho interrotta, prego. Le faccio una domanda a lei. La TM di Milano è privata o è pubblica? La TM di Milano è pubblica. Quindi possiamo avere anche una gestione pubblica. Ma certo. E stavo dicendo esattamente questo. Il rapporto che esce di Mediobanca, che cito sulle partecipate, sono le partecipate pubbliche. Come no? la GTT di Torino parecchi settori li ha esternalizzati con dei privati. Cosa comporta gare che fa, gestisce lei delle gare d'appalto, tipo della movimentazione interna che sarebbe rifornimento e pulizimenti. Ho visto varie ditte che sono subentrate all'interno negli anni. Le posso garantire che quando vanno sotto, quando vanno in gara per vincere la gara d'appalto, c'è un prezzo minimo. Loro cosa fanno? Siccome sotto quel prezzo minimo non possono andare, allora cosa fanno? Danno più servizi allo stesso prezzo. Tutto ciò dove ricade? Ricade sui lavoratori. Nel senso, i lavoratori di queste ditte private, se prima dovevano rifornire e pulire 100 vetture, se ne chiedono 130, 140. Quindi va addosso, questo risparmio addosso a chi va sulle spalle di chi va, dei lavoratori. Quindi la privatizzazione io non la vedo. Non è, noi non stiamo parlando, noi non, no, Salvatore, abbia pazienza con l'ideologia. Noi oggi non stiamo parlando della privatizzazione. La liberalizzazione sono gare. Le gare le può vincere il soggetto pubblico, Ferrovie, il soggetto pubblico che è l'azienda locale, regionale, ex provinciale o dei grandi comuni, comunale. Basta che sia chiaro e trasparente a quali condizioni partecipa alla gara e che cosa chiede in cambio. Noi non stiamo parlando della privatizzazione, io non sto dicendo bisogna cedere al privato perché è più efficiente, io sto dicendo che qui non si fanno le gare e nelle gare mancando le gare ci sono fior di esempi. Quello che ha detto lei per esempio sull'esternalizzazione privata all'ATAC è diventato una delle ragioni fondamentali dello squilibrio di bilancio patrimoniale dell'ATAC, perché a furia di assumere gente da una parte all'altra, ma di esternalizzare fuori i servizi, si sono moltiplicati i costi. Quindi si figuri se non le do ragione. Naturalmente però non è vero che è uguale da tutte le parti, perché ci sono parti pubbliche invece dove queste prassi non sono avvenute. Ma quello che diciamo noi è che basta però che facciano le gare, altrimenti tutto diventa opaco. E il problema non è che ci rimettono i dipendenti se facciamo le gare con i costi trasparenti, ci rimettono i cittadini, perché a Roma e a Napoli un terzo, un quarto, a volte fino a più di un terzo delle vetture non escono nelle città, perché questa è la condizione in cui sono ridotte le aziende, cioè in quel caso l'ATAC e nell'altro caso l'ANM. A Roma, quando hanno ceduto linee a un altro soggetto pubblico peraltro, l'ATAC, perché non erano in condizioni tecniche di poterle offrire, si è toccato con mano, e ne abbiamo più volte parlato a questi microfoni, che il costo medio orario del servizio scendeva ed era un soggetto pubblico, come vede Salvatore. Quindi oggi non sto facendo le privatizzazioni, sto dicendo mettiamo in condizioni per gestire al meglio i servizi di fare gare trasparenti. Tutto qua, questo è l'argomento della puntata di oggi, ma io la ringrazio per averci chiamato, perché come vede io su un pezzo del suo ragionamento l'ho dato assolutamente ragione, l'ho fermata solo quando mi dice non è la privatizzazione la soluzione, ma oggi stiamo parlando di gare, cioè di concorrenza aperta a regole chiare e trasparenti, cioè rendendo perspicuo per il cittadino che paga, e non paga poco oramai, visto che i prezzi salgono, in cambio che cosa ottiene di quello che paga. E questo deve valere anche per il pubblico, non solo per il privato, a cominciare dal pubblico. Bene, a questo punto abbiamo strade e poi subito dopo Andrea Giuricin, il nostro ospite di riferimento per Alitalia Cerberus, per spiegarci questa offerta fuori dal meccanismo di gara, che cosa vuol dire. Strade. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati dopo, sapevo che appassiona sempre questo tema, però vediamo la Alitalia per quanto ce la teniamo ancora con questa finta, io dico finta, ma insomma, lo so, è vera, però non ne conosciamo il termine di questa procedura commissariale di Alitalia. Nel frattempo non abbiamo diritto di sapere i dati della gestione industriale commissariale, perché la legge in base alla quale è stato commissariato, come si è già visto nell'ILVA, siamo andati avanti all'ILVA di Taranto per anni senza avere i numeri certificati della gestione commissariale. Non capisco perché capite? Perché a maggior ragione se è commissariata l'azienda i numeri li deve dare, ecco, e invece niente. E adesso arriva questa offerta di Cerberus che dice che noi ce la prendiamo integrale, e i commissari dicono: ah, avete visto, quindi si può vendere integrale a un prezzo più elevato. Andrea Giuricin insegna economia dei trasporti in Bicocca di Milano, in queste settimane vedo che sta girando come una pallina nei quattro continenti, invitato a parlare a conferenze straordinarie, quindi complimenti e invidi da parte mia. Ma insomma, questa offerta di Cerberus che ci dice, Giuricin? Beh, grazie Oscar, ci dice innanzitutto che non esistono offerte serie per quanto riguarda l'Italia, solo si prolunga la partita, sembrerebbe addirittura Cerberus possa far sì che la partita slitti ancora. Anche questa è la tua impressione? Anche questa è la mia impressione, tanto che oltretutto Cerberus, essendo extraeuropeo, non potrebbe prendersi la maggioranza, questo è un elemento chiave. E non a caso dice: noi vogliamo fare l'offerta con il governo italiano e con i sindacati italiani. E questo mi preoccupa come contribuente, mi sembra proprio una soluzione di rinazionalizzazione. Che poi questo governo italiano si chiami Casse Depositi e Prestiti o si chiami Ferrovie dello Stato o non so come, ma quella cosa preoccupante che significa soldi pubblici. Ma possiamo arrivare a pensare che sia stato sollecitato dai commissari e dal governo, che hanno una chiara intenzione di evitare sia lo spezzatino che un qualunque altro soggetto specializzato nell'offerta di trasporto che non metta piede in Italia? Possiamo ipotizzarlo secondo te? Guarda, io non mi permetto di dire una cosa così forte, indubbiamente il governo e anche i commissari hanno mostrato interesse per questa offerta, e soprattutto sembrerebbe essere arrivata proprio quando Lufthansa faceva un'offerta relativamente bassa, perché quello è il valore dell'azienda, e quindi è abbastanza casuale, non è così casuale. Anzi, ecco, non è così casuale, infatti io sospetto, no. Ma io sono un cattivaccio, a differenza di te che sei un accademico, io posso permettermi di essere malevolo, io sospetto fortemente, però, perché, e devo dire la verità, sono rimasto anche male nel vedere l'informazione italiana, ha dato uno spazio, un rilievo a questa offerta di Cerberus, come se fosse una specie di, avete visto che quindi l'impostazione data dalla politica è quella giusta, e io dico, ma cari colleghi, ma insomma, di che cosa stiamo parlando? Vabbè, però, l'esperienza in Air Canada di Cerberus, visto che tutti l'hanno magnificata, è così magnifica? Guarda, a mio parere è bene ricordare che cosa può fare Cerberus in questa occasione, al di fuori di quello che può aver fatto in passato. I fondi in generale fanno del bene alle aziende, molto spesso, non sempre, nel senso tendono a ottimizzare e eliminare gli sprechi esistenti. Ma Cerberus in questa occasione non può prendere il controllo dell'azienda proprio per legislazione europea. Quindi cosa può fare se non essere una stampella al governo, barra a determinati azionisti pubblici? E cosa possiamo pensare dell'idea, che è evidente che vogliono ripubblicizzarla? Su quali basi, viste le esperienze precedenti? Cioè, sarebbero capaci di immaginare un downsizing? Io su questo ho delle difficoltà concettuali, magari mi sfugge, magari all'occhio invece molto più competente tuo si può immaginare anche un pezzo, una specie di percorso per cui si può fare una ripubblicizzazione che ne ridefinisca la natura e la mission? Guarda, secondo me arriverà probabilmente, come pensi anche te, da quanto visto, da quanto letto, è un percorso lungo e che si scontra oltretutto con le elezioni, nel senso comunque ci aspettano le elezioni da qua a marzo, molto probabilmente all'Italia sarà un tema della battaglia politica, probabilmente. Una nuova Alitalia pubblica sarà... non riesco a capire come il contribuente possa ancora digerirla, a meno che non si dica Cassa Depositi e Prestiti privata, Ferrovie dello Stato viene in SPA, quindi è privata, tutte cose false come noi sappiamo bene, ma il, diciamo, l'analfabetismo funzionale esistente in Italia, tutto questo magari non si collega. Hai citato la cosa della quale io sono particolarmente convinto ed è il motivo per cui l'ho messa in coda al grande disegno delle Ferrovie dello Stato, che ci sta facendo regredire sulle gare aperte nel trasporto pubblico locale. Hai citato Ferrovie perché un pezzo della politica italiana e un pezzo del PD ha in mente questa cosa, che non esiste, o almeno esiste, dici, va della giurisdizione, esiste in qualche parte del mondo una gestione delle ferrovie e di una compagnia aerea che dice tanto sempre trasporto, ma esiste? Che io sappia, in tutto il mio giro vagare per il mondo non ne ho mai visto. Ecco, nemmeno io. Magari mi salto qualcosa, però. Perché sono due mestieri completamente diversi. Ma la politica italiana, magari, invece è convinta, proprio per le dotazioni di miliardi e miliardi date a Ferrovie dello Stato, anche se vengono riarticolati in legge di bilancio, perché dai 2 miliardi si passa a 1 miliardo di trasferimenti a Ferrovie dello Stato l'anno prossimo, poi si recupera nel 2019. Però proprio per la pinguedine del trasferimento a Ferrovie dello Stato, adesso se ci fosse qui naturalmente il capo di Ferrovie dello Stato mi direbbe che non è vero, c'è un contenzioso aperto storico con l'IBL su come si leggono nei bilanci di Ferrovie dello Stato i trasferimenti, ma detto tutto questo, proprio in ragione di quello, io ho il sospetto che alla fine la politica potrebbe riservarsi non tanto CDP, perché CDP serve a un'altra cosa ancora, quanto le Ferrovie dello Stato, e allora diventeremo l'unico paese al mondo, Andrea, ad avere le ferrovie e il trasporto aereo integrato. Sai che bellezza? Vabbè, magari visto quanto si sta sviluppando l'Hyperloop e queste tecnologie, l'Italia svilupperà il treno volante, non lo so, per il costo comunque tutto va a carico del contribuente. No, a parte diciamo, a questo non si è mai visto da nessuna parte del mondo, e soprattutto bisogna tener conto che Ferrovie dello Stato, è vero, ricevono contributi per i servizi, ma dall'altra parte non ci sono mai state gare nei servizi regionali, così anche come negli intercity. Solo gli intercity sono oltre 300 milioni di euro l'anno per 10 anni, sono oltre 3 miliardi di euro di contributi, e quindi siamo a un livello tale che, diciamo, 300 milioni o 2 miliardi da parte delle regioni dentro all'Italia possono essere annacquati, ma sono soldi pubblici, è bene ricordarlo. Ma io accetto scommesse. Io ti dirò che non penso che ne parleranno apertamente in campagna elettorale, perché si riservano poi una soluzione dopo la campagna elettorale. Qual è il giudizio tuo? Quanto può durare l'aumento delle dotazioni di altri 300 milioni al fondo pubblico di l'Italia, il fondo a tempo? Perché io non ne conosco i numeri di gestione e quindi non sono in grado di dirlo, ma magari tu invece li conosci. E quanto può durare ancora? Guarda, nessuno purtroppo conosce i numeri della gestione. Sembrerebbe che durante l'estate la compagnia ha bruciato cassa, nonostante l'estate, che è il periodo migliore, quando di solito le aziende fanno soldi, anche le più disastrate compagnie aeree fanno soldi. Loro dicono di aver bruciato forse 80 milioni di euro, però non ci sono dati certi. Durante l'inverno potrebbero bruciare altri 200-300 milioni di euro? Questa è una stima, chiaramente all'oscuro di tutto, però questa è una stima di una compagnia che non va bene. Quindi 900 milioni nel complesso potrebbero benissimo bastare ad arrivare addirittura alla fine dell'anno prossimo senza alcun problema. Alla fine dell'anno prossimo, ok. 900 quindi, diciamo, milioni di euro sono tanti. Diciamo che cinque mesi dopo le prossime elezioni, come tempo per capire poi il governo che sarà in carica allora, cosa diavolo decide. Attualmente l'ago è per ripubblicizzare. Io la vedo così, mi assumo la responsabilità di questa previsione. Grazie anche a Andrea Giuricin e naturalmente a tutti voi ascoltatori. Domani dalle 10 alle 12, grande puntata dei Conti della Belva. Parleremo di età pensionabile, di lavori usuranti. Parleremo della Golden Share, la politica che mette la zampa, guarda caso, su Tim, perché questo è nell'interesse sia di Renzi che di Berlusconi. E parleremo anche dell'industria della difesa, perché domani è il 4 novembre, la festa delle Forze Armate. A domani ai Conti della Belva. We'll be right back.